una barca fatta di carta che se si bagna affonda, come un frutto che ogni morso la testa mi confonde, come una fiamma che si muove e al vento non ubbidisce mai. Mi piace come sei, come una bilancia che pesa il tempo, la solitudine e il silenzio, come un buco nell'universo da dove arrivano i sogni, come una cesta da riempire e da non vuotare mai. Mi piace come sei, come una ferita dentro al cuore che non fa male. Mi piace come sei, come una finestra che anche chiusa lascia passare l'aria, una figlia, una madre, una donna nella mia vita. Terra secca, come la lana che mi protegge quando l'inverno arriva, come la candela che resta accesa, che mi fa luce nell'oscurità. Mi piace come sei, come la strada che mi porta sempre nel luogo esatto in cui voglio arrivare, come quel posto lontano dal centro dove mi fermo a riposare, come una patria senza bandiera dove sentirsi liberi. Mi piace come sei, come una ferita dentro al cuore che non fa male. Oh, mi piace come sei, come una finestra che anche chiusa lascia passare l'aria, una figlia, una madre, una donna nella mia vita. Come una ferita dentro al cuore che non fa male. Oh, mi piace come sei. Come una finestra che anche chiusa lascia passare l'aria, una figlia, una madre, una donna nella mia vita. Barca fatta di carta che se si bagna affonda, come frutto che ogni morso la testa mi confonde, come una fiamma che si muove e il vento non ubbidisce mai. S'ha feito de nuei, tu mi aguardas ya. Lo peito me brinca en tornarte a besar. Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren moito y te fagan florar. Yo no quiero ver huellos de cristal, mullaos por glarimas que culpa no hay. Esculta, muller, dixa de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dice que querer y he de dos lo más, y que lle más fácil verlo caminar, cuando el uno calle el otro a levantar. Cuando el uno calle el otro a levantar. S'ha feito de nuei, tú me aguardas ya, lo peito me brinca. Te quiero.